mio bene, dopo tante pene, pur giungo a riveder il tuo sembiante. Orlando, il grande Orlando, messo in valise amante. Forse mico scherzando, signor Tuval. Non so scherzar coso, quel che per te male è così fiero che non trova più loco. Tu non rispondi, che dirò, ben grande, se mi vuoi in consorte, sappia che lì di queste ogni prena, chissà, giove tre volte arse per vita. E tu non parli ancora, dimmi crudel, se vuoi che io viva o muoia. Sofia!